Buongiorno a tutti, benvenuti alla lezione del Kollel Torah di stamattina, che si andrà a proseguire il percorso del conteggio dell'Omer nell'anima. Abbiamo visto la scorsa volta tutto il discorso di come si applicano le sette Sefirot e le sette Midot, attributi e caratteristiche dell'essere umano, che dovranno essere resi più raffinati, migliorati durante il percorso del conteggio dell'Omer. Abbiamo approfondito nella precedente lezione, che potete trovare sulla pagina Kollel Torah Roma e vedere il video, sentire l'audio. Abbiamo visto il significato di cosa sono queste Midot e come. Una, abbiamo fatto l'esempio della Sefirah del Chesed, l'amore e la benevolenza, come questa è effettivamente anche formata e segnata da tutte altre sette. E così per tutte le sette Sefirot c'è un percorso di sette per sette. Ora vorremmo applicare questa cosa all'esperienza umana nel senso più base della parola, e cioè è chiaro che ogni persona ha sia delle facoltà intellettuali che delle facoltà emotive, sentimentali, e però anche un animale ce le ha. Solamente che teoricamente la differenza dovrebbe essere che quelle facoltà sentimentali e emotive dell'uomo, dell'essere umano, dovrebbero essere gestite dalle facoltà intellettuali, cosa che invece nell'animale non necessariamente è così. Un'altra distinzione, un'altra differenza che c'è, che ci sarebbe qui tra l'essere umano e l'animale, è che l'animale, anche se ha tutte le facoltà sia intellettuali che emotive, ma è soprattutto una questione naturale. Non è che cambiano o che l'animale si migliora nel suo percorso di vita. Così come nasce, quelle sono le sue, tra virgolette, facoltà e così rimane. Mentre invece, quindi è una questione naturale, natia dal momento della nascita. Nell'essere umano, oltre, c'è anche questo aspetto qui, cioè c'è l'animale dentro l'essere umano, c'è l'anima animale che rappresenta questo aspetto qua dell'uomo, ma c'è anche la stessa cosa sovrapposta, se vogliamo, dell'anima divina. Quindi, se noi volessimo, potremmo dire, nel pensiero hassidico cabalistico, quando parliamo delle sette midot, quindi queste sette facoltà, stiamo parlando di una realtà che si moltiplica, si sovrappone su ogni situazione. Non è oggettivamente questo è il chesed e questo è il gevurah. No, in base alla situazione c'è il chesed della situazione e la gevurah della situazione. Quindi, se c'è il chesed dell'anima animale, cioè il chesed dell'anima divina. E per capire un pochino meglio questa cosa, si farà proprio un elenco qui di come questa cosa si esprime nell'anima animale e poi vedremo come si esprime nell'anima divina. Spesso si usa il termine Yetzer Hara e spesso si usa il termine Nefesh HaBehamit, e cioè Yetzer Hara, istinto verso il male, e Nefesh HaBehamit, anima animale. È la stessa cosa? Sono due cose diverse? È una domanda che spesso mi è stata posta e qui spiega che in realtà sono due aspetti della stessa cosa. Nefesh HaBehamit, anima animale, è un riferimento alle facoltà intellettuali, appunto, della parte base della persona, e Yetzer Hara è un riferimento alle facoltà emotive della stessa parte base della persona. Quindi Nefesh HaBehamit, anima animale, e Yetzer Hara, istinto verso il male, sono due elementi che formano insieme la parte base, la parte animalesca, se vogliamo, della persona. Ok? Fino a qui ci siamo? Molto bene. Allora, partendo dalla penultima riga della pagina 108, vediamo la parola Chesed. Quindi partiamo dall'inizio delle sette Sefirot nella parte base della persona. Chesed, che significa, come abbiamo già visto, amore, se volessimo semplificare, Hi ahava gufanit l'inyanei haolam. Amore nel senso amore materiale, amore corporale al verso tutto ciò che è mondano, cioè la vicinanza naturale tra la persona e l'esperienza proprio vissuta fisica, materiale, i piaceri del mondo. Che ovviamente noi stiamo parlando di questa cosa in luce negativa, cioè come i piaceri mondani ci portano via dai piaceri più importanti, spirituali e divini. Ok? Quindi, quando parliamo ora nella prossima riga di Chesed, Shebe Chesed, l'attributo Chesed del Chesed, l'aspetto Chesed dell'attributo di Chesed, stiamo parlando di proprio una infatuazione, se volessimo, con i piaceri mondani. L'entusiasmo, ve'atuvtam, e quel buon gusto particolare che si sente, Rahmana Litza, anche che Dio ce ne scampi, per ciò che riguarda i desideri corporali e mondani, e Hanachot Haolam è un'espressione hasidica particolare che significa il modo di vedere le cose secondo la mondanità, cioè è una mentalità, una questione di mentalità, una persona che è, per così dire, gestita più che altro dall'aspetto mondano della vita, acquisisce una mentalità particolare, perché tutto gira intorno a questo. E quindi anche quando deve applicare la propria mente per approfondire altre questioni, è sempre segnato nella sua mentalità da elementi base, da idee che non sono elevate. E quindi vede le cose in una prospettiva molto, molto base, di nuovo. Quindi questo rappresenterebbe il Chesed Shebe Chesed, l'attributo Chesed del Chesed. Quando parliamo della Gevurah, e di nuovo stiamo vedendo qui tutto l'aspetto negativo sul quale si sovrappongono sempre le Sefirot, Gevurah Shebe Chesed, la Gevurah di Chesed, yassinah le Shomer Torah u'Mitzvot. È qualcuno che non solo, dove si esprime questa Gevurah? Nel Chesed, cioè l'amore verso ciò che la vita mondana richiede è così forte, e quindi la persona non si ferma da qualsiasi piacere mondano, anche se è vietato dalla Torah. La Gevurah del Chesed è questo amore è così forte che addirittura c'è un odio, un rancore nei confronti di chi si ferma. Nei confronti di chi rispetta le Torah e Mitzvot e si frena in tanti aspetti della vita perché dice questo è vietato dalla Torah, chi invece è così infatuato con l'entusiasmo del piacere mondano che non si ferma, non può neanche vedere un altro che si ferma. E quindi è come se ci fosse questo odio, non posso vedere questo qui, perché lui cosa, chi si pensa di essere che invece si rispetta? È come una forma di gelosia, o come lui la chiama qui, una forma di odio. Questa è la Gevurah, quindi un aspetto negativo, rigoroso, che c'è nel Chesed, nell'amore. Cioè l'amore per il mondo è così grande che non puoi neanche vedere l'altro che non si gode quella stessa La situazione concreta che c'è goduria. presente. Sì, bravissimo, bravissimo. Questo sì, si vede in alcuni contesti anche oggi, purtroppo. Tiferet Shebe Chesed. Invece la bellezza del Chesed, cosa significa? Che Hillel Rasha al Tavat Nafsho. C'è un versetto molto potente nel Teilim, nel Salmo 10, capitolo 10, che dice il Rasha, cioè il malvagio, Hillel loda, ringrazia, canta praticamente, fa poesia del proprio desiderio base del suo cuore. Al Tavat Nafsho, il desiderio del suo cuore. Quindi Hillel, lui addirittura ne fa poesia, per così dire. Quindi abbellisce, Tiferet abbiamo detto l'altra volta, è la bellezza, quindi rende bello, mette sotto luce poetica tutto ciò che può sembrare in realtà per la Torah negativo, viene invece presentato in maniera come se fosse chissà che cosa di bello, di culturale, di profondo, eccetera. Poi abbiamo la Sefirah di Netzach. Netzach cosa rappresenta? Netzach abbiamo detto è ambizione, vittoria, quindi è una certa fermezza. Per essere ambiziosi bisogna essere fermi nelle proprie posizioni. Cosa rappresenta qui nel nostro contesto? Netzach Shebechesed, Hu HaChoteh, Umachti et Rabbim Bitkifut. Netzach rappresenta colui che non solamente pecca, ma come dice nelle Pirkei Avot, fa peccare gli altri, cioè così convinto nel proprio modo di fa, da fa, nei propri modi, che non solamente lui stesso va contro quello che è richiesto, ma addirittura trascina anche altri. È così fermo e così convinto nella propria posizione che riesce purtroppo anche a trascinare altri a seguirlo. Vehu e non nirta mipnei shum davar. L'attributo di Netzach vuole, quindi l'ambizione, vuole che la persona non si fermi davanti a nulla. Non c'è, sembra che non ci sia nulla che lo può fermare. Poi abbiamo l'attributo di Hod. Hod, abbiamo detto, è legato ad umiltà, ma nel senso negativo esce fuori quasi il contrario. Hod shebechesed hu, Hod vuol dire anche splendore, se ci ricordiamo. Hod shebechesed hu, Hayodea et ribono umechaven limrodbo. C'è un detto nei Midrashim, lo riporta Rashi sulla Torah diverse volte, che dice riguardo a Malek in particolare, ma è una condizione generale che può realizzarsi, cioè Yodea et ribono, colui che conosce il proprio padrone, inteso a Kadosh Baruch Hu, umechaven limrodbo, e appositamente intende ribellarsi contro il proprio padrone. Cioè, c'è chi fa un peccato non perché si vuole ribellare, ma perché non riesce a trattenersi. Buongiorno. O diciamo così, di diversi livelli. Uno potrebbe fare un peccato perché non sa che è un peccato, o sa che è un peccato, ma non si accorge che sta peccando, oppure si accorge che sta peccando e sa che è un peccato, ma non riesce a trattenersi. È un piacere troppo grande. Dice più forte di me, non sono riuscito a trattenermi. Questo già non è così terribile perché ammette che sta facendo un errore, ma ammette la propria debolezza. Invece il livello di cui stiamo parlando qui è molto più grave perché dice io conosco il mio padrone, so quello che lui richiederebbe da me e vorrei andare contro. Perché? Perché voglio proprio ribellarmi. Che è un altro, ovviamente, è un'altra fase di, per così dire, di peccato, di andare contro. Quindi questo si chiama alachicamente mumar lehachis, cioè colui che è ribelle, non leteavon, che significa per piacere, perché non può rinunciare, non vuole rinunciare a dei piaceri, ma proprio lehachis, per far arrabbiare a Kadosh Baruch Hu, per così dire. E questo si esprime quinta Sefirah, che è Hod. Poi Yesod. Yesod, abbiamo detto anche l'altra volta, è il legame. È il legame dove appunto avviene il rapporto, per così dire, dove avviene la trasmissione di tutti questi sentimenti verso un altro, verso qualcosa che è esterno a noi. Allora Yesod Shebechesed, il Yesod del Chesed, quindi dell'amore verso la mondanità, è proprio il legame, l'essere molto molto legato a quei piaceri mondani. Umashumitlahev, umechubar le tavot gufaniyot vechumriyot. È proprio questo essere, come abbiamo anche detto prima, entusiasmante e legato in maniera particolare a questi piaceri, fino al punto che può far del male a degli altri per arrivare alla propria volontà. Addirittura usa qui un esempio molto estremo, un rozeach che delle malote tavotav, uno che potrebbe essere assassino o uccidere per arrivare a riempire il proprio desiderio, ad adempiere al proprio desiderio. Quindi, e non irta mipnei shum sakana, il senso è che non si ferma davanti a qualsiasi anche pericolo, avurta avotava humrayot, per i propri desideri proprio base. Anche se sa che un tipo di vizio o di comportamento potrebbe essere nocivo per la propria salute, ok? E potrebbe addirittura pagare con la propria vita, non si ferma. Quindi è arrivato a un punto in cui potremmo dire, forse non è più la sua colpa, nel senso che è dipendente da qualcosa, tossicodipendente o fumo dipendente o quello che è, però qui stiamo parlando più in un ambito che potrebbe anche essere considerato, tra virgolette, un peccato, perché la Torah dice di fare attenzione alla propria salute, però qui stiamo parlando più nel senso più tradizionale del peccato, cioè qualcosa che è vietato in un altro senso, e anche se si può usare anche quell'esempio lì, non bisogna vedere questo come qualcuno di cattivo, no? Però ci sono dei comportamenti che sono cattivi anche se le persone non necessariamente lo sono nel complesso, possiamo dire così. Però questo è solo per fare un esempio, dove una persona potrebbe farsi del male pur di avere quel godimento del momento, che è una cosa abbastanza comune e umana di tutti noi. Malchut Shebe Chesed, arrivando all'ultima delle Sefirot, che è appunto Malchut, il regno, abbiamo detto che questa Sefirah è legata alla parola, quindi alla comunicazione esclusivamente umana, che è la parola. Questo è un riferimento nel contesto negativo, nel contesto dello Yetzer Hara e dell'anima animale, a parole che sono vietate. Quindi prendere in giro, Lashon Hara, Rechilut, maldicenza, pettegolezze, ma ancora di più di Burei Kfira, parole di come si dice? Eretiche, parole Eresia, direi. di eresia, grazie. Cioè, potremmo trovare Elushem Kofrim Bashem, coloro che vogliono essere, vogliono negare Maisia Hashem, vogliono essere eretici della Torah e prendono in giro le mitzvot, sia con la parola che per iscritto, cosa che fa sì che tutto l'ambiente diventi più base, più aperto verso ciò che è il contrario della volontà di Hashem. Che ridicolizzano, eh. Ridicolizzano, eccetera. Al contrario, quando si cerca di evitare questo tipo di comportamento, si rende l'ambiente più raffinato, più volto a dei sentimenti e degli approfondimenti e del comportamento in generale, più raffinato, più in linea con la volontà di HaKadosh Baruch Hu nella Torah, Più elevato. più elevato, grazie. Che sarebbe invece il risultato di applicare le sefirot che invece sono legate all'anima divina. E quindi qui abbiamo fatto l'elenco di tutte le sefirot, come sono racchiuse nell'unica sefirah di Chesed, che abbiamo identificato con l'amore, nell'ambiente, nell'ambito della Nefesh HaBeHamit, dell'anima animale dello Yetzer Hara, come tutte le sette le sefirot si possono esprimere all'interno di questa unica sefirah. E così vale anche per le altre Sefirot. Quindi se andassimo alla seconda, la Gevurah, ci sarebbe da sovrapporre tutte le altre sette, da Chesed e da Malchut, nell'ambito di Gevurah, che in quel contesto sarebbe l'odio verso le cose positive nell'anima animale. E al contrario, nella prossima lezione vedremo tutte e sette le Sefirot, come si replicano sempre nell'ambito di Chesed e di amore, ma questa volta nel contesto dell'animo e dell'anima divina, della Nefesh Elohit. Quindi la contrapposizione diretta a quanto abbiamo visto fino a questo momento. Quindi abbiamo cercato di spiegare che quando parliamo delle Sefirot, l'ambito hassidico-cabalistico, non stiamo solamente parlando di qualcosa che esiste in qualche sfera divina, dei mondi, ma in ogni realtà si rispecchia e viene ad esistere un micro insieme delle Sefirot che si può applicare a qualsiasi situazione. Quindi quando si dice, ma questa cosa è riferita a Chesed o è riferita a Gevurah? Può essere riferito a tutto, dipende in che maniera lo si vede, in che maniera si esprime. Quindi l'abbiamo visto come si esprime nell'anima animale e la prossima volta vedremo come si esprime nell'anima divina. Buona giornata. Zacca. Ho trovato una